sei Giulio? Ah, siamo in terra bruciata. Ormai ci possiamo vedere tutto, dai. Stiamo ascoltando sul 20, mi pare strano che arrivi 8 da coso. Mi arrivi 9.15 qua, 9.15. Conta che è un baracchino, quindi... Insomma, però qua sembra 9.15, quindi o c'ha qualche attenuatore inserito, boh. Sicuramente ha l'attenuatore lì inserito, ma se me l'hanno dato anche 9.10, continente, mi ha anche pure lasciato lui, su canale 33 ho chiamato la Spagna, mi ha risposto subito, per cui che puoi immaginare, e si vede che aveva le cose, come si dice, l'attenuatore inserito, che ne so, o perlomeno lo switcher che non vale niente. Comunque non ci credo, lui mi arrivava a 9.18, si può immaginare, se tanto mi da tanto mi dovrebbe dare il segnale più o meno, no? Se no anche la ricezione non potrei ricevere a lui 9.18. Anche quello. Insomma, tu sembri da casa, con l'antenna sul tetto, qua non sembra che sia un'antenna interna, autocostruita, messa a un metro da terra, capito Giulio? Quindi qua il segnale è ottimo. Una tipo canale a pesca l'hai fatta? Sì, tipo canale a pesca, appunto, anche se è bassa, anche se è in terrazzo, che è circondata dai quattro muri, però mi sembra strano, perché anche la ricezione avrei avuto dei limiti molto, molto importanti, invece se lui mi arriva a 9 più 18 e l'altro mi arriva a 9 più 10, l'altro amico che c'era, e vabbè l'altro non me l'ha detto il segnale, mi sembra strano che lui ha uno switch che è tutto sballato, almeno credo che sia così, o perlomeno è attenuato, aveva l'attenuatore, forse parlando tra di loro si è attenuato e non se lo ricordava. Eia, io sono con i soliti 4 watt, quindi un po' come va, come il segnale là con l'antenna autocostruita. 9.10 quasi. E perché io quante watt ho? Aspetta, te lo dico subito. 5 watt io, esatto. Eia, almeno io ne ho 4 qui all'apparato, però dopo 50 metri di cavo non so quante ne escano dall'antenna, eh. Sicuramente almeno un watt lo perde, se non di più. Ma minimo ne perde la metà, almeno la metà ne perde, guarda. Se hai 4 watt e 50 metri di cavo, se l'antenna ce ne saranno se no 2 watt, non di più. Guarda, io adesso do una sterzatina, guarda bene il segnale se aumenta, eh. Ecco, adesso lo riapro. Ecco, l'ho messo come la prima. Com'è? Ha aumentato la segnale? Sì, è andato grosso modo a 9 più 20. Dico grosso modo perché questo smitter, insomma, baracchini sono, dai. Guarda, io solo una cosa, i video del 140, lo smitter, solo quello in video, era impagabile. Sicuramente sì, però... ci vuoi fare pazienza, ormai non ce l'hai più, poi c'è venduto anche l'altro, no? L'altro che avevi in quasi banda. Sì, fuori tutto, tanto ho già scremato qualcosa, mi sto tenendo gli ultimi, vabbè, mi sto tenendo la serie dei 3009 perché sono eccezionali, l'apparecchio che preferisco in assoluto. E poi gli ultimi, poi vedrò se fare fuori anche l'8008, lo IESI 8008 VEU, tanto non sto più ricevendo, mi ho messo il portatile oggi tanto per sentire, chi c'era sul 7, c'era Gio Maria, c'era, gli altri non li sento, sento solo lui, perché sono bassi, poi portatile proprio, portatile con antenino da portatile, quindi non sento nessun altro. Il ricevitore l'avevo tolto, pensa che è finito in terra dietro un mobile, il ricevitore che avevo da tavolo piccolino, non sto ascoltando nemmeno più i radioamatori perché ne ho le tasche piene, di poco che dicono, poi per il resto vanno in digitale. Ormai è finita l'era dell'ascolto, del radioascolto, mi Giulio. Vabbè, no, io ogni tanto già ascolto, anche in 40 ascolto, stavo ascoltando anche poc'anzi, stavo ascoltando anche in 20 mesi, poc'anzi. Per cui, ecco, torniamo anche a quello. Nonostante che l'antenna è molto bassa, che non è certamente tarata per quelle frequenze lì, sentivo benissimo sia in 20 metri che in 40 metri anche tra l'altro, per cui l'antenna io dico che va bene, anche se non ho l'analizzatore dell'antenna, ma con l'osmetro già mi sono arrangiato ugualmente. È vero che funziona. Poi te lo sto dicendo, quando non contiene, tanto più che devo spedire anche una cartolina che me l'hanno chiesta, se per cortesia gli mandavo una cartolina, Pordenone, praticamente nel Veneto, dunque, nel Friuli Venezia Giulia, sì. E io te la mando, e devo essere sincero, lo devo fare stamattina e poi me ne sono dimenticato. Poi glielo farò lunedì, visto che gliel'ho promessa, no? Non è che mi interessa più di tanto, però gliel'ho promessa e io non voglio mancare di parola, capito? Questo ragazzo me l'ha chiesto se gentilmente le mandavo una cartolina, già te la mando, capito Marco? Eia. Una volta si usava il P.O. Box, te lo ricordi? Non so nemmeno cosa sia questo P.O. Box, però dicevano così con i DX, deve essere una specie di casella postale, no? Una casella postale, io ce l'avevo a Florina, infatti andavo tutti i sabato, andavo a ritirare la posta nel periodo della propagazione. E qualche amico anche avevo dato anche il numero, avevo dato della casella, il codice del vento postale 07030 Florina, e spedivo tutte le settimane io mi facevo la passeggiatina in macchina, andavo a ritirare la posta che era arrivata, capito? E poi distribuivo anche a qualche amico che aveva usufruito della mia casella postale, siccome a Sassari non ce n'erano, tutti impegnati, e allora l'avevo presa via a Florina, ma pagavo la fesseria, adesso non mi ricordo bene, ma mi sembra che pagavo 7.000 lire, se ricordo bene, per tutto un anno, che si può immaginare. Buonasera, chi è? Eugenio? Buonasera a tutti e due. Ti chiamavo da Ussi, ci hanno lasciato un po' di bianco, tra un passaggio all'altro la gente non riesce a entrare. Buonasera, come va? Eia, come va? Un po' caldo, io sono in pantaloncini e boh. Ovviamente, al mare sta andando poco, una o due volte a settimana massimo, però dovremmo accelerare, se no la bronzatura non ce la facciamo, che poi a me della bronzatura non mi interessa, a me piace fare il bagno eccetera. Caro Eugenio, hai molto rumore di fondo, cioè il microfono è talmente amplificato che fa un rumore di fondo. Apro con le finestre aperte, ma adesso è cambiato. No, è uguale, uguale. E beh, giustamente in macchina, con mezzi mobili, sente tutto il rumore, il ciabotto di fondo, no? E beh, come ti sia già? Tutto a posto. Via. Oggi eccezionalmente sono entrato 27, tanto lo lascio acceso, non c'è mai nessuno. D'altronde io non chiamo, quindi se qualcuno è all'ascolto, se non chiamo non rispondono. Oggi è capitato che ci siamo incrociati con Giulio. Avanti Giulio, per Eugenio in baramobile. Vabbè, è il movimento, se non ne approfittavo per chiedergli il segnale, ma è il movimento, no, non mi serve oggi. Comunque dimmi se mi ascolti bene ugualmente, dai. Avanti Eugenio, sto usando un dipolo, avanti Eugenio. Io sono qua a Sassari, mi arrivo a Santo Scala, e l'amplificazione è una delle migliori di quelle che ho sentito. Ok. Figurati, Marco, guarda, adesso io un segnale nemmeno ne volevo, ma facciamo attimo il confronto con quello che stavamo dicendo poc'anzi io, Marco, tanto per darti un'idea. Allora sono sempre più convinto che lo Smith ce l'ha ballato, o perlomeno ce l'ha attenuato, Marco. Sì, qualcosa, io come ho sentito Santiago Otto, ho detto, non è possibile, non è possibile, poi facendo il segnale tuo, quindi già qua tutto bene. Ascolta, ma la Mantova, avevi poi risolto l'annoso problema del... che praticamente il cortocircuito si apriva, la cortocircuitazione. Sì, è tutto a posto, è tutto in ordine, ma adesso non avevo voglia di piazzarla, adesso è sdraiata nel poggiolo, lo stilo centrale che è lungo roba di 7 metri, una cosa del genere, è sdraiata nel poggiolo su Massalda. Perché io ho due poggioli sia in Massalda che poi nel primo piano, no? Ho due poggioli che sono 8,50 m per lato, a due lati, no? C'è il poggiolo lungo, 8,50 m da parte e 8,50 m, che non ho nemmeno smontato lo stilo centrale, l'ho lasciato così, ma tutto alla parte, tutto a posto, è tutto in ordine. Avevo sostituito il connettore PL, no? Che c'è su nell'antenna, avevo sostituito anche quello, perché quello che c'era rotto era proprio il contatto centrale, capito Marco? Buttato giù il cartone, non serve a niente, dove si vuole guardare la mia, che è più bella. Ehi, e cosa ci vuoi fare? Bravo. Ma adesso ne ho autocostruito una, un giappone, ed è basso a livello di quasi di pavimento, a un metro dall'altezza dal pavimento, ed è su terrazza. Ma ripeto, nel terrazzo chiuso da quattro mura, per cui ha anche delle poca possibilità di uscita, ma lo devo mettere in alto quando ne avrò voglia, e se ne vale la pena fare tutti questi lavori. Non c'è più nessuno, c'è voluto risolvere qualcosa, poi per mi sa tanto che lascio tutto com'è, perché non c'è proprio più nessuno. In effetti è così, non c'è più nessuno, per cui adesso io stasera ero, pensavo un po', ero dalle 3:30 con la radio accesa qua, nemmeno 10 minuti fa ho sentito il bip, dopo che ho fatto io qualche chiamata su questo canale e su altri canali anche, ho sentito il bip, allora ho fatto chi è e mi ha risposto Marco. Vabbè, la gente non ha più voglia, pazienza, e cosa ci vuoi fare, non me ne frega più di tanto. Se c'è qualcuno ci parliamo, se no non ho perso niente, guarda. Tanto i miei 45 anni e oltre di frequenza me li sono vissuti, per cui sono più che soddisfatto. Ok, sì. No, perché stavo chiedendo un controllo alla Pedocce, che sono un tiro di schioppo. Lì dovrei arrivare intorno alle 9:30, io lì, ma non sono Santiago Otto, ma comunque, forse avevo la tenatura inserita, non se ne è accorto. Sicuramente se Eugenio va verso Pro Torres, quindi passerà lì punti e sarà a fondo scala. Allora, notizie dal fronte, Giulio. Chi abitava nei pressi della fabbrica Sigma, proprio che fa la Mantova 1, ha detto che ha chiuso, proprio la fabbrica della Mantova 1 ha chiuso. E quindi pare che qualcuno aveva già difficoltà a trovarla. Adesso chi ha scorte di Mantova 1, Mantova Turbo, o meglio per dire, scusa, Mantova Turbo, cominceranno piano piano a finire le scorte, poi infine mai più Mantova. Ne hanno parlato su Roger K. Hanno detto anche però che ciò che restava, il poco che restava della Sigma, si sarebbe associata alla Sirio, però non produrrà più i modelli suoi della Sigma. La Sirio fa peraltro modelli ottimi e niente da invidiare la Mantova, e li fa molto, molto ben rifiniti i prodotti. Adesso vedremo lo sviluppo, se è vera sta cosa, ma l'ha detto uno che ci abita, che ci passa tutti i giorni lì davanti. si dice proprio chiuso tutto, il capannone chiuso o quello che è. Il tramonto di un'era, dai, come altre marche magari che sono sparite, o altri modelli, tipo la Firenze 2. Sì, Marco, ma è così, ma lo so, se no io l'avrei presa, no? E guarda che questa antenna ce l'ho un anno, mi cosa dire che ce l'abbia? Per cui, però, ripeto, solo quella c'è in vendita, in circolazione, ancora oggi qualcuna c'è, ma fra non molto non ci sarà più nemmeno quella, appunto come stai dicendo tu, perché la fabbrica, la Sigma è chiusa, ma da tempo, da anni veramente è chiusa, non da adesso, per cui la 1 o la 5 non è più in produzione da anni, anzi non è più nemmeno in produzione la Mantova Turbo, perché tant'è vero, quella è un po' che Mantova che sono rimaste, sono etichettate Intec, sono etichettate, perché sì, sono Sigma, d'accordo, però evidentemente con la Intec le ha acquistate, che ne so, boh, le ultime che sono in circolazione, se vuoi guarda, anche da poco avevo, saranno 10 giorni fa, mi ho fatto un giro di telefonate per vedere se trovavo la 1, ho detto, oh, da tanto tempo non si trova più, per cui cosa vuoi dire? Ma sai cos'è? Quelli che non sono entrati, appoggiami, quelli che non sono entrati sono tutti con l'ossigeno, capito, dal caldo, non ce la fanno più, invece chi è riuscito a farcela siamo noi tre a entrare. Sì, io ti sento. Sì, io ti sento, non ci sono problemi, io ti sento sempre, perché non te devo sentire? Sì, che ti sento, a voglia, ti sento, non è un problema, figurati, tu mi senti sempre a me, o devo aumentare un po' la radio? Figurati, sentendo sai Marco, voglia, va bene, dopo, vabbè dai, non fa niente, spieghiamoci. Vediamo se c'è Claudio, non ci sei? Claudio, no, cosa mi sono perso? A casa della figlia, credo, arredando, e che ne so, boh, forse stanno sistemando la casa, e per cui non ha molto tempo. L'altro giorno mi aveva detto così, o Marco, che non entrava, perché non stava entrando per quel motivo lì. Ehi. No, non ho capito cosa mi sono perso, Giulio. Ehi, vabbè, no, dico, tornando al discorso, sentite che a Porto Torres Eugenio, è sempre alla grande, mi sente, per cui non so cosa dirti. Tornando al rapporto di poco fa, dai, Santiago. Ehi, ok, no. Mi stai arrivando tu a me adesso, quasi Santiago 9, dalla macchina, da Porto Torres, figurati un po', per cui già, vabbè, dai, già va bene lo stesso, Eugenio, prima. No, che in maniera, è installato in maniera omnidirezionale, capito? Per cui non è messo in verticale, perciò non è quello il discorso, Luigi. No, non può essere, guarda, non può essere. E per cui vabbè, comunque, andava bene. Va bene lo stesso, avanti Marco. E Luigi, cosa vuoi che ti dica? Dopo 10 minuti, quando ho chiuso lì, sono passato nel canale 33, ho chiamato la Spagna, mi ha risposto alla prima chiamata, per dirti no. Siamo contenti, anche ieri, dal Veneto, tranquillo, 9 più 10, cosa vuoi che ti dica, o Eugenio? Vabbè, la radiofrequenza è strana, però, insomma, ho molti dubbi io, dai, in proposito. Se avesse magari la radio attenuata, probabilmente quello, non se ne era accorto, non se ne era reso conto, non so cosa dirti, però i dubbi quelli, solo quel dubbio lì, no, niente di particolare, ci mancherebbe, ma probabilmente aveva l'attivatore nella radio. Ok, certo, ti sento sempre molto bene, sei Santiago 8, tranquillamente, in movimento. Il QSP è anche abbastanza limitato, perché non scende mai sotto dalle 7, anzi modulati arrivi a 9, per cui va più che bene. Ok, sì. Va bene così, avanti Marco. Allora, stavo cercando il post, le pagine che ne parlavano, ma non le trovo. non le trovo. Fatto sta che altri posti dicevano sì, che è proprio, mentre prima era ufficialmente chiusa, ma bene o male il negozio era aperto, sai, magari finivano gli ultimi pezzi, adesso proprio hanno visto serrare, chiusa la serranda. E poi questa pseudo associazione con l'eco antenne, no, con la Sirio antenne, che fa antenne, guarda, Antonello di Ossi ha un'ottima antenna della Sirio, che è equivalente alla Mantova, molto molto ben finita, è molto bella, adesso non mi ricordo però il modello. Sarà la 827, quella che è finita molto bene, strutturalmente molto ma molto ben finita e anche molto robusta a quanto sembra, per cui non so cosa dirti. Aspetta, ecco. Il microfono ho appena sollevato, lo sto strappando, vero Marco? È molto forte così. Allora devo montare un po', no, perché non mi era sembrato con un volumetro qua che avesse tutta la missione radio. Va bene, comunque là, mi sono allontanato un pochino. Avanti, Eugi. Ok, ciao Eugi, alle prossime, dai, ci sentiamo. Avanti Marco. Eccomi, adesso sto aprendo il Sirio, ma il sito sirioantenne.com, e ti dico che modelli fa, perché fa vari modelli di 5 ottavi, ne fa 3, forse anche 4, certe sono sottili, certe sono grosse. Sì, la maggiore penso che sia quella, la 827, quella dovrebbe essere la migliore in assoluto. Come antenna, cioè la numero uno della Sirio. E mi pare che sia proprio quella. Mi pare sia quella. Sì, aspetta che te lo dico. Ok, quella c'è la possibilità anche di installare una raggiera per la tenuta della vibrazione dei radiali, eccetera. Ma è una cosa che vendono a parte, per cui è molto molto ben costruita, molto molto bella. Anche esteticamente è bella. Sì, allora, vediamo un po'. Vabbè, hanno quella uguale alla mia, hanno la GPE 5 ottavi, identica alla mia, più ti danno delle boccolette di plastica, no? Poi c'è, vediamo un po', però non è chiaro qua, non lo so perché sto trovando modelli strani. Hanno cambiato anche la pagina. Vabbè, adesso te lo dico in breve, fanno quella come la mia, tipo Energy. Hanno un altro tipo, si chiama Tornado, mi pare, ed è sottile, lo stesso di tipo leggero. Poi fanno l'827, che dovrebbe essere quella di Antonello, che proprio è bella, bella come antenna, un bestione. Poi fanno quella che ha la carica dentro un lampioncino, mi pare si chiami Sirio 2016 o giù di lì, c'ha proprio la carica in rame dentro un lampioncino trasparente tipo policarbonato, no? E quelle sono le 5 ottavi. Poi fa ovviamente la Game Master, che con l'antenna un po' strana, eccetera. E poi fa addirittura l'equivalente della Salyut, si chiama Vector 4000. La Salyut, te la ricordi, quella lunga 8 metri, 8-9 metri, che è praticamente una tre quarti d'onda. Sì, c'è anche quella con la tre quarti d'onda, è vero, 8 metri e 40, mi sembra, se ricordo bene, di lunghezza. È anche esagerata, sì, beh certo, allora Sirio fa belle antenne, io al momento penso che sia la casa costruttrice numero uno, almeno per quanto riguarda questa frequenza. Poi per altre frequenze è chiaro, ci saranno altre ditte, altre fabbriche che saranno sicuramente superiori al Sirio. Comunque la Sirio, ripeto, è una grande azienda, dai. Sì. Per esempio, la Sirtel esiste ancora, oppure, che ne so, altre antenne di quel tipo, sì, cosa conosci? C'è la Sigma, andata, la Sirio, la Sirtel e poi me ne manca una, non mi ricordo il nome. Ma se ricordo bene, la Sirtel è sempre di costruzione Sirio, più o meno, dai, penso che sia della stessa ditta, della stessa azienda. per quanto mi ricordo io, però non ne sono sicuro. Ehi, aspetta che guardo, GL27, GPS, ci sono modelli strani che non c'erano prima, E adesso mi tocca cambiare pagina. No, un pasticcio a questo sito comunque. Ogni tanto cambiano lo coso, l'esposizione del sito è diverso magari da altre volte. E evidentemente lo fanno anche per una questione commerciale, non lo so. E se sa, è così, e se no la gente dice cosa guarda sempre queste tre cose e da noi non si torna mai a vedere il nostro sito, mentre invece loro cambiando invita anche la gente a vedere se c'è qualcosa di nuovo. Nega. Quindi se la Sigma ha chiuso spariranno anche la Turbo 2001, la Mini Turbo, quell'antenna lì, così è. Vabbè, che sai cos'è? La gente ragiona per schemi. Tutti prendono Mantova Turbo e per la macchina la Turbo 2001. Da lì non escono, eppure dal Sirio fa antenne eccezionali. Fa un'antenna da macchina, aspetta com'era, la Sirio 5000. Ma va detto Luigi Vulcano che batte ma di poco la Turbo 2001, cioè se la metti sulla stessa base, no? Alla fine ti dà magari quel mezzo Santiago in più, ma te lo dà. Sì, è possibile, perché no? Certo che è possibilissimo che possa essere così. Sì, ma fate questo, che a seconda la parità di potenza, 5 ottavi e 5 ottavi, c'è quell'antenna che magari ha un lobo più ampio e riesce ad andare più lontano, o magari che so io, consulta il 24% della sua possibilità, mentre le antenne magari sfruttano il 20%, il 18% della possibilità. Dipende dal tipo di variazione che hanno. Ci sono quelle antenne che irradiano magari installate di una certa altezza, come ad esempio il caso del dipolo. Il dipolo, se non è installato ad una certa altezza dal suolo, o meglio dal tetto, chiaramente ne risente molto nella sua espressione di portata, per cui non è come l'antenna che ho già con la massa eccetera, la massa come radiale, no, intendo quello, è un altro discorso, può essere anche a 2 metri dal tetto per dire e ti dà il massimo della potenza, capito? Ma sì. C'è un'antenna, può essere più o meno efficiente, poi conta anche l'angolo di radiazione. Ovviamente ogni casa madre dice che la sua 5 ottavi è la migliore, quella con l'angolo più basso di radiazione. E comunque molti sono lamentati della Turbo, che come materiale era un po' scaduta rispetto alla Mantova 1, alla Mantova cos'era, la 5, no? La Turbo, le ultime Turbo, cioè negli ultimi tempi sono scadute anche di qualità, proprio fatte un po' alla carlona, con particolari discutibili, come se ormai non gliene fregasse più niente, diciamo, alla Sirio. Invece la Sirio è costante nel tempo, tiene modelli sempre molto ben finiti, materiali di qualità, capito? Ma speriamo che almeno quella duri, la Sirio, che duri almeno quella. Se no bisogna andare sulle antenne CDE, che sono sempre la mia, è pur sempre un'antenna cinese, praticamente la mia Energy, sicuramente è made in Cina, la Midland ci mette solo il nome, così come la Sirio, perché c'è la uguale, mette solo il nome. E vabbè. Comunque guarda, il fatto che sia leggera per me è stata una benedizione, se no sarei stato costretto a tirantare e sarebbe stato un problema col padrone del terrazzo, perché già in un primo momento quando si è reso conto, perché prima non l'avevo vista, l'ho vista a sorpresa, e mi è venuto io farà ad un raio. Sì, ma non era così micidiale questo colpo che ha preso, per cui, perché tu hai tutte le cose, come dice, tutti i diritti da poter installare, ci mancherebbe altro, voglio vedere. È così, Marco, sì, in effetti è così, ripeto, ogni antenna ha le sue caratteristiche, c'è quella che ha un lobo di radiazione magari più alto, c'è quello che ce l'ha più basso e a secondo dell'altezza, ma come si fa a fare tutte queste prove per farla rendere al massimo? È una cosa assurda, non puoi stare sempre tirando su, passando, provando, facendo, poi ci vuole anche il punto di riferimento, ci vuole sempre possibilmente fisso che sia sempre quel posto, perché magari chiedi a uno che è all'altro e ha problemi lui di ricezione, insomma è tutto un discorso molto ma molto ampio e soprattutto difficile da poter stabilire, Marco. Sì, infatti adesso sarei studiando il computer, insomma vabbè, adesso vediamo un po'. Mannaggia, questo internet a certe volte ti fa avvelenare, non carica la pagina o la carica in modo distorto, vabbè, comunque quelle sono, dai, diciamo due belle bestie della Siria, sono l'827 che hai detto tu e l'altra, poi le altre sono più sottili, poi la Vector 4000 non ne parliamo, addirittura quella Salyut lì, la Vector 4000, sono 8 metri e più di stilo, se li togli tutta quella struttura che c'ha sopra, no, in butto, e li metti un adattatore di impedenza, te la fai risuonare in banda amatoriale, lo sai, al limite levi la carica se c'è sotto pure, magari non c'è nemmeno, ti metti un balun apposito e la fa risuonare e ti fa in giro una canna a pesca, la lunghezza c'è. Sì, beh certo, in effetti, e vabbè, la devo ancora ultimare per Benino, no? Ancora la tengo così perché poi un po', perché la devo provare anche in alto. Tu pensa che è più in basso di 5 metri almeno di come era la Mantova, per cui la differenza è grandissima in fatto di resa, non è possibile, è ovvio, ci mancherebbe, ma già stando ai segnali che mi hanno dato è già più che efficiente, per cui figurati tu quando deciderò di metterla al posto della Mantova Turbo, allora andiamo alla grande, se non addirittura meglio anche di prima, per dire no, la situazione è così, non c'è niente da dire. E cosa ci vuoi fare? Vedremo. Solo che ha un vantaggio è grandissimo, non essendoci radiale, magari in caso di vento eccetera, non c'è quel risuono o alle volte fastidioso, capito? Che un po' tutti quelli con le radiali hanno. Finalmente mi si è aperta la pagina, ho dovuto cambiare browser. Allora, sì, la Siri 827, eccola qui, è una bella bestia. L'altra è la Siri 2000, quella che ha la bobina bella grossa chiusa dal policarbonato. E ha anche una marea di radiali, vedo, 1, 2, è un sacco, saranno almeno 12. Poi la New Vector 4000, quella che ti ho detto, mamma mia, 8 metri di stilo. Eccola, il Tornado, la New Tornado, questa è un'altra antenna, sembra una Mantova però sottile, praticamente in formato ridotto, eccola qua, la Tornado New. Anche quella era carina da provare, ma io l'ho voluta comprare a Sassari tanto per non stare a ordinare, poi che ne so, manca un radiale, c'è qualche difetto e devo stare a... insomma, la distanza è seccante. Comunque ho visto che, caspita, ormai Tonino, no, non Tonino, quello della GBC applica i prezzi alla lettera, cioè l'estino Midland, se dice 90 euro, lui te la fa pagare 90 euro, non ti sconta niente. Lo sai quanto gli ha chiesto per il linea retto 747 a Natalino? Forse c'eri il giorno, non mi ricordo. 60 euro, prezzo di listino, 80 euro. Un lineareto che su internet costava 50 euro massimi. Sì, lo so. Già me l'aveva detto, Natalino me l'aveva detto, che aveva chiesto 80 euro, pazzesco. Io mi ricordo qualche annetto fa, avevo comprato da lui, avevo pagato 60 euro. Poi il fulmine poi me l'aveva annientato, per cui, ma non solo quello, anche altre apparecchiature. Ma non nessuno si mette solo di comprarle più e non le comprerò mai più. Anzi, non spenderò più nemmeno un centesimo per la 27, nella maniera più assoluta. Da poco mi ero ripreso il Baofeng e poi tra l'altro non lo sto usando nemmeno. Ma non lo sto usando perché non c'è gente, se non passo da quell'altra parte, se no non sento nessuno. Per cui, ma che poi secondo me siamo anche un pochino fessi, perché non lo dobbiamo usare noi anche, visto che lo usano da un'altra parte, perché noi non lo dobbiamo usare, ma non lo so, o Marco. Lo so, però non lo so, mi metto in testa paranoie. Il centro di ascolto, eccetera. Ormai è imminente il repulisti. Non lo so, perché quando la cosa è troppo pressante comincio a crederci anch'io, capito? Ma prima battutine stavano facendo là. No, assolutamente, tranquillo. No, sono persone come si deve, per carità, ci mancherebbe altro. Assolutamente no, Marco. Sì, poi naturalmente c'è anche la persona infame, però i livelli massimi sono tutti tranquilli, no? Non è quello il problema, figurati. Il discorso è sempre quello. No, sembra che ormai sia diventato appannaggio individuale di quel gruppo lì. Io sarei dell'idea, infatti l'avevo anche detto a Claudio, perché non dobbiamo parlare anche noi lì? Cambiamo canale, è semplice, è tanto semplice. Lui dice no, io non ci parlo in PMR, ma io non ne vedo il motivo per cui non ci si debba parlare tra di noi. Non ti sembra che sia questo? Vabbè, ma Claudio, sai come i radioattori sono più, potremmo dire, controllati, cioè magari se va a parlare lui lì succede casino e cominciano a fare i controlli, lui rischia di perdere la patente amatoriale, capito? Noi al limite ci fanno una multina, più che altro per i VAT, lo stesso anche lui mi dice che disturbiamo, questo è da vedere. C'è un ponte ripetitore dei vigili urbani, dai vigili del fuoco ai 444, quindi queste potenze elevate, disturbiamo non si sa ben chi, però è un concetto astratto, o potremmo disturbare, ma finché il disturbo non c'è, non lo so, comunque me l'è passata la voglia, me l'è il PMR. Pensa che con Antonello Pomponio ci volevamo pigliare addirittura i digital PMR, andare in digitale anche noi con dei portatili o quelli cinesi anche, non mi ricordo come si chiamano, Itera, sono programmati e sì, in full digital, per far schiattare gli altri più che altro. No, io sinceramente ogni tanto un saluto agli amici glielo faccio, naturalmente a certi amici non a tutti, ma un saluto ogni tanto glielo faccio, alle volte me lo porto anche la mattina, me lo porto alle volte così in giro. E quando lui va di parlare e di sentire qualche amico, lo saluto, che io non ho niente con nessuno, gli altri non hanno niente con me, hanno fuori di una sola persona, ma quella è per me è morta, no? Per cui non me ne frega niente, per dire, no? Ma gli altri sono tutti, se io devo parlare con Marino, mi piace, se devo parlare con Battisio o con Gio Maria o con Tore, perché no? Che problemi ci sono? Assolutamente no, ci siamo sempre rispettati, io ho rispettato loro hanno rispettato me. Poi naturalmente chi ha fatto i il deficiente si rimanga per i fatti tuoi, no? non me ne frega più di tanto, capito? È così, oh Marco. Per cui io sono dell'idea che quando ne ho guida ci fanno anche, perché no? Vabbè, però è difficile parlarne qua. Sì, vabbè, quello sì. Ma per dire, no? Anzi, devo dirti che sento molte persone che ci lavorano anche. Alle volte lo lascio acceso così e sento molte persone che ci lavorano, ma a partire dal canale 1 al canale 8, ci sono un po' dappertutto. Forse sono delle aziende che danno ordini e che danno direttive ai propri dipendenti, per cui lo usano anche per lavorare, ma a quelle persone bisogna lasciarli tranquille, non bisogna assolutamente interferire, ci mancherebbe altro, sarebbe la maleducata, e io certamente non sono maleducato. Vabbè, io anche non sono entrato per via delle tensioni, insomma, tra due persone, purtroppo, non lo so, è difficile dirsi, dai. Sì, sì, ho capito, lo so, sì, da quando era successa la famosa Asturia, e poi era risultata una falsità madornale. Per cui non consideriamo più, certamente non le consideriamo, no, per me, ripeto, sono scomparsi nel vero senso della parola, sono nell'ultima pagina della Nuova Sardegna, per dire no Marco, per me io la penso così. Sardegna. WhatsApp ce l'hai? Certo che ce l'ho, tutto io ho tutto, ascolto in varie frequenze, dappertutto, io vado dove voglio, anche se non ho mai sbandierato le coserie, però io ascolto e sento dove voglio e volendo mi collego anche dove voglio. Ehi, sentivo questa ripropagazione. Ehi, vabbè, è difficile spiegarmi, baracchino. Sì, beh certo, ho capito. Sì, sì. Ho ricevuto un messaggio. Ho ricevuto. È curioso quella fotografia a testa in giù, curiosa. Sì, già. Buonasera, avanti, chi è? Ciao Giulio, buonasera, ciao Marco. Sono entrato, sono acceso adesso, ho sentito salutare. Niente, avanti a te, Giulio sta girando. Ok, tu sei entrato tutto di proposito, è così che posso chiedere per cortesia il mio segnale, sto usando un dipolo autocostruito, dimmi per cortesia, con pochi watt, 4 watt appena, avanti. Cappa Giulio, mi arrivi segnale 9 modulati, diciamo a picchi di 9,5, dai. Ok, grazie. No, perché poc'anzi avevo chiesto un controllo qui nei paraggi vicino e mi hanno dato sempre agosto, dove io dovrei arrivare 9,30, 9,25, 9,30. Marco, questa è la controprova, ecco, Franco che dice 10 volte di più là, 10 volte, anzi forse anche 20 volte più là, di nove appunto con la persona, e come vedi il segnale è di gran lunga superiore, Marco, riprendi. Lo so, ma se non ne sanno usare di quelle radio, l'ho sempre detto io, ho sentito ola, avanti, no, niente da fare. Mi puoi contattare? Sì, aspetta un attimino, c'è Franco adesso, scambiamo due chiacchiere con Franco, poi casomai ci faccio uno spigo più tardi. Ok Franco, allora, oggi sei di riposo o devi entrare stasera, stanotte a lavoro? Stanotte devo fare, mi devo montare, andare a mangiare, sono già le 8 delle 20, sono. Quindi mi saluti a Marco che non lo sento, c'è un rumore, mi è superato, c'è un segnale 9. Ok, sì, Marco, ti saluta Franco, che non ti sente. Non ti sente, il rumore ti supera, per cui non riesci a sentirti. Avanti Marco, vediamo un po' se puoi aumentare, fatti sentire a Franco. Yeah. Franco, vedi un po', io purtroppo ho 4 watt, mi ascolti? Sì, sì, adesso ti ho ascoltato un pochettino, tutto rauco, però ti ho sentito, diciamo che c'è un rumore, non so da cosa dipenda, so che non è alta tensione o qualcosa, non so, e niente, ok, dai, intanto ero entrato solo per salutarvi, perché vi ho sentito, ce la riascoltiamo le prossimine, perché io devo mollare, devo andare a cena, poi a lavorare. Ok, avanti a te Giulio, e poi fai girare e con la buonanotte a tutti quanti. Ciao ciao. Ok, ciao Fra, grazie per essere entrato a salutare, guarda, mi ha fatto molto piacere. Lo sai che non mi ero accorto che sono già le 9:20, cioè le 8:20, non mi ero accorto, passata la serata così stasera. Va bene, ciao Fra, di nuovo, saluto, alla prossima, a risentirci, ti mando Marco per i saluti, vai Marco. Ehi, ciao Franco, qua arrivi bene, 9 modulato 9.5, quindi nessun problema, quindi ti ascolto benissimo, benissimo, peraltro la propagazione oggi è più bassa, e certi giorni arrivano, guarda, un giorno c'era uno arrivava 9.10, 9.5, 9.10 in propagazione, roba assurda, oggi è molto più tranquillo qua, da parte mia, dai. Ok, dai, ciao, ciao. Ciao, di nuovo fra, ciao, alla prossima, dai. A risentirci ancora la prossima volta. Sì Marco, beh, lo so, alla volta la preparazione arriva anche 9.10, anche 9.15 e diventa difficoltoso sentirci fra di noi, ma già si supera, dai, già ce la facciamo, quando vogliamo già ci facciamo sentire ugualmente, non è un problema, oh Marco. Tu prendi Marco? Via. Comunque qua tutto tace, persino Natalino non è entrato oggi. Claudio sicuramente è impegnato nella casa e ha dei lavori in atto, dai. E per quello non entra giù. L'altro giorno gli ho chiesto ma tutto bene? E lui sì sì, mi ha mandato un messaggio che andava tutto bene. Saranno impegnati in quell'altro progetto forse che mi aveva detto. Già ci sono, ciao Franco se mi senti, buon tutto, comunque io già ci sono. Allora vedi che c'era? Allora sta facendo l'ascoltone, ciao Natali, buona serata, avanti Natali. Ciao Giulietto, ben sentito, buonasera a te e a Marco, dai. Indaffanato qui e sto mettendo a posto. Riprendo subito. Ok, Natali, d'accordo, dai. Riprendi Marco. Ehi, caspita, 8:20, vabbè, un'altra serata se n'è andata. Uff. Aspettando il corriere, tra la sera, è arrivato 4:30, 5. Poi per fesserie, comprate la mamma, proprio fesserie, roba da cinesi. Spende 50 euro a volta, 45 euro per comprare delle lucine, fesserie, dai. Poi però lei dice, tu pensa a quello che compri tu, che stai sempre comprando fesserie. È un po' accuse reciproche, dai. C'è roba che trovi nelle bancarelle cinesi, ma niente di che. E lì compra da euro 9, sono cose di veramente poco valore, roba da... Ma... Va bene, non fa niente. Ok, ma questo numero ce l'hai, questo di WhatsApp ce l'hai impostato tramite il computer tu? Smartphone. Sì, no, perché mi arriva un coso, l'app mi arriva col coso, tramite il computer mi arriva. Eia. Sì, io al computer non l'ho messo. L'ho messo solo su pertanto il computer lo sto usando, guarda, solo per scaricare musica, film, qualcosa del genere. Lo uso veramente poco il computer vero e proprio. Guarda, io da quando ho lo smartphone sono un re, puoi fare tutto, navigare, scaricare la posta, comprare, guardare i video, tutto fai. potrei anche rinunciare al computer, diciamo di no. Però. Ok, sì. È vero. È vero, Marco, sì. No, io qui ho qualcosa, come si chiama? Il fisso ce l'hai sempre, perché ho anche il numero dello smartphone, ma tu il fisso ce l'hai sempre? Sì, ho anche il numero fisso io. Ok, sì. Va bene, adesso ti chiamo, va. Al fisso o allo smart? Non lo preferisci. Vabbè, fai tu, dai. Cavolo, dai. Adesso a portata di... o questa, la portata ottica o quello fisso, l'attimo, chiamo lui.